Il terzo anello ad alta voce. Il circolo Pickwick di Charles Dickens. Mr. Perker sorrise, si indugiò a fiutare una presa di tabacco, attizzò il fuoco, si strinse nelle spalle e restò eloquentemente zitto. «Volete dire che in quel caso dovrei pagare i danni?» disse Mr. Pickwick, che aveva seguito questa simbolica risposta con sguardo severo. Perker diede un altro inutilissimo colpo al fuoco e disse «Temo di sì». «Allora, permettete che vi annunci la mia incrollabile decisione di non pagare affatto i danni», disse Mr. Pickwick con enfasi. «Assolutamente, Perker. Non una sterlina, non un penny del mio denaro dovrà andare a finire nelle tasche di Dodson e Fong. Questa è la mia ponderata e irrevocabile decisione». E Mr. Pickwick diede un gran pugno sulla tavola per confermare l'assoluta irrevocabilità. «Benissimo, caro signore, benissimo», disse Perker. «Voi siete il miglior giudice, naturalmente». «Naturalmente», ribatté Mr. Pickwick. «Dove abita l'avvocato Snobbin?» «In Lincoln's Inn Old Square», rispose Perker. «Vorrei vederlo», disse Mr. Pickwick. «Vedere l'avvocato Snobbin, caro signore», ripeté Perker letteralmente stupefatto. Ma che, caro signore, impossibile! Vedere l'avvocato Snobbin, Dio vi benedica, caro signore, non si è mai sentito che succedesse una cosa simile senza aver pagato in anticipo gli onorari del consulto e aver fissato un appuntamento. Non si può, caro signore, non si può!» Tuttavia Mr. Pickwick aveva deciso non solo che si poteva, ma che si doveva fare, e per conseguenza entro 10 minuti da quando gli aveva assicurato che era impossibile, il suo legale lo introduceva nell'anticamera dell'ufficio del grande avvocato Snobbin in persona. Era una stanza senza tappeti, di discrete dimensioni, con una grande scrivania messa vicino al caminetto, ricoperta da un panno che aveva perso da lungo tempo ogni pretesa al suo verde primitivo ed era a poco divenuto grigio per la polvere e gli anni, tranne i punti dove ogni traccia del suo colore naturale era stata cancellata da macchie di inchiostro. Sulla scrivania c'era un gran mucchio di fascicoli legati con spago rosso, e dietro di essa sedeva un vecchio impiegato, il cui aspetto lustro e la cui pesante catena d'oro balzavano agli occhi come un simbolo della vasta e lucrosa attività professionale dell'illustre avvocato Snobbin. Quando i clienti entrarono, l'avvocato stava scrivendo. Egli si inchinò distrattamente quando Mr. Pickwick gli fu presentato dal suo legale, e poi, facendo cenno di accomodarsi, posò con cura la penna sul calamaio, si prese il ginocchio sinistro fra le mani e aspettò che gli si parlasse. «Mr. Pickwick è il convenuto nella causa Bardell e Pickwick, avvocato Snobbin», disse Perker. «Mi sono impegnato a difenderlo, vero?» disse l'avvocato. «Sì, signore», rispose Perker. L'avvocato annuì e aspettò il resto. «Mr. Pickwick era ansioso di vedervi, avvocato Snobbin», disse Perker, «per avvertirvi, prima che incominciaste ad occuparvi della causa, che nega l'esistenza di qualsiasi fondamento o ragione all'azione promossa contro di lui, e che, se non potesse entrare in aula con le mani nette e con l'onesta convinzione di avere il diritto di opporsi alle richieste della querelante, non vi andrebbe nemmeno. Credo di aver espresso esattamente il vostro pensiero, non è così, Mr. Pickwick?» disse l'ometto rivolgendosi a Mr. Pickwick. «Esattamente», rispose quest'ultimo. L'avvocato, Mr. Snobbin, aprì l'occhialetto e lo portò agli occhi, e dopo aver guardato Mr. Pickwick per qualche secondo con gran curiosità, si rivolse a Mr. Perker con un lieve sorriso. «È una causa messa bene quella di Mr. Pickwick?» Il legale si strinse nelle spalle. «Avete intenzione di citare dei testimoni?» «No». Il sorriso si fece più marcato sul volto del grande oratore. Egli si cullò la gamba con accresciuta violenza e, lasciandosi andare sullo schienale della poltrona, tossicchiò dubbiosamente. Thank you. Chi è con me in questa causa? Disse Snobbing. Mr. Funky, avvocato, rispose Perker. Funky, Funky, disse l'avvocato. È un nome che non ho mai sentito, deve essere molto giovane. Sì, è molto giovane, rispose Perker. Ha avuto questo incarico solo qualche giorno fa. Fatemi pensare, sì, è avvocato da 8 anni appena. Ah, lo immaginavo, disse l'avvocato con quel tono compassionevole che si usa generalmente parlando di un bamboletto inerme. Mr. Maillard, mandate qualcuno da Mr. Funky, Albon Court, Gray's Inn, intervenne Perker. Albon Court, si è detto per inciso, è l'odierna South Square. Mr. Funky, disse l'avvocato, e ditegli se può venire qui un momento, per favore. Mr. Maillard andò a fare la sua commissione e l'avvocato Snobbing si astrasse di nuovo finché Mr. Funky non fu introdotto nella stanza. Questo bambino lattante della professione legale era però un uomo fatto. Mostrava un gran nervosismo nei modi e una penosa esitazione nel parlare. Ma questo, piuttosto che un vizio di natura, sembrava effetto di timidezza, derivante dalla coscienza di essere in condizioni di inferiorità per mancanza di mezzi, di clienti, di parentela o di impudenza, a seconda dei casi. Era sopraffatto dalla grandezza dell'avvocato e pieno di cortesia per Mr. Perker. «Non ho mai avuto il piacere di incontrarvi prima, Mr. Funky», disse l'avvocato Snobbing con superba condiscendenza. Mr. Funky si inchinò. Lui invece aveva avuto il piacere di vedere l'avvocato Snobbing e anche di invidiarlo, con tutta l'invidia di un poveraccio per 8 anni e 3 mesi. «Mi dicono che siete con me in questa causa, vero?» disse l'avvocato. Se Mr. Funky fosse stato ricco, avrebbe immediatamente fatto chiamare il suo impiegato per farselo ricordare. Se fosse stato saggio, avrebbe portato l'indice alla fronte e si sarebbe sforzato di ricordare se nella moltitudine dei suoi impegni avesse accettato anche questo. Ma non essendo né ricco né saggio, in questo senso almeno, arrossì e si inchinò. «Avete esaminato la pratica, Mr. Funky?» chiese l'avvocato. Anche qui Mr. Funky avrebbe dovuto dichiarare di aver dimenticato tutto ciò che riguardava la causa, ma poiché aveva letto tutte le carte che gli erano pervenute durante il corso dell'azione e non aveva pensato ad altro giorno e notte da 2 mesi, cioè da quando aveva ricevuto l'incarico di fungere da aiuto dell'avvocato Snobbing, diventò ancora più rosso e si inchinò di nuovo. «Questo è Mr. Pickwick», disse l'avvocato puntando la penna in direzione di quest'ultimo. Mr. Funky si inchinò a Mr. Pickwick con la reverenza che il primo cliente riesce sempre a suscitare e chinò di nuovo la testa verso il suo superiore. «Potreste accompagnare fuori Mr. Pickwick?» disse l'avvocato. «E ascoltare tutto ciò che a Mr. Pickwick piacerà dirvi. Poi potremo avere un abboccamento, si intende?» Lasciando così capire che avevano abusato abbastanza del suo tempo, l'avvocato Mr. Snubbing, divenuto a poco sempre più astratto e distante, si portò le lenti agli occhi per un attimo, fece un lieve inchino circolare e tornò a immergersi profondamente nel caso che gli stava davanti. Mr. Funky si rifiutò di passare da qualsiasi porta se Mr. Pickwick e il suo legale non erano passati prima di lui, e quindi ci volle un po' di tempo per uscire nella piazza. E quando infine ci arrivarono, passeggiarono su e giù e tennero una lunga conferenza pervenendo alle seguenti conclusioni: che era molto difficile dire quale sarebbe stato il verdetto, che nessuno può prevedere con certezza l'esito di un processo e che era stata una bella fortuna aver impedito alla parte avversaria di accaparrarsi l'avvocato Snobbing, e altri argomenti di dubbio e di consolazione assai comuni nelle situazioni del genere. Thank you. Quello è il banco dei testimoni, immagino, disse Mr. Pickwick, indicando una specie di pulpito con una ringhiera di metallo alla sua sinistra. Quello è il banco dei testimoni, caro signore, rispose Perker, disseppellendo una quantità di carte dalla borsa blu che Lowten aveva appena deposta ai suoi piedi. E là, disse Mr. Pickwick, indicando due ordini di seggi separati sulla destra, là siedono i giurati, non è vero? Esattamente, caro signore, rispose Perker, tamburellando sul coperchio della sua tabacchiera. Mr. Pickwick rimase in piedi, in uno stato di grande agitazione, e diede un'occhiata all'aula. C'era già un certo numero di persone nelle tribune del pubblico e un folto gruppo di signori con la parrucca nel banco degli avvocati, i quali presentavano nell'insieme quella piacevole grande varietà di nasi e di basette per cui il foro d'Inghilterra è così giustamente celebrato. Di questi signori alcuni, che avevano un incartamento con sé, lo portavano più in vista che fosse possibile e di tanto in tanto vi ficcavano dentro il naso per far più colpo sul pubblico che li stava a guardare. Altri, che non avevano incartamenti da mettere in mostra, portavano sotto il braccio grossi volumi in ottavo, con l'etichetta in rosso sulla costola, e quella rilegatura color focaccia malcotta che tecnicamente si chiama in pelle forense. Altri, che non avevano né incartamenti né libri, si cacciavano le mani in tasca con l'aria più pensosa che potevano ottenere, senza eccessiva fatica. Altri, infine, si muovevano qua e là senza requie, col massimo impegno, accontentandosi di suscitare così l'ammirazione e lo stupore dei creduli profani. Tutti quanti, con grande meraviglia di Mr. Pickwick, erano divisi in gruppetti che chiacchieravano e discutevano le novità del giorno con la massima indifferenza, proprio come se il processo che doveva incominciare non esistesse nemmeno. L'attenzione di Mr. Pickwick fu richiamata dall'inchino che gli fece Mr. Funky entrando e prendendo posto nel banco degli avvocati, e aveva appena risposto al saluto quando apparve l'avvocato Mr. Snobbing, seguito da Mr. Mallard. Questi nascose l'avvocato a metà dietro una grande borsa scarlatta che posò sul tavolo e, dopo aver stretto la mano a Perker, si ritirò. Poi entrarono altri due o tre avvocati, fra i quali uno grasso con la faccia rossa, che salutò amichevolmente con un cenno l'avvocato Mr. Snobbin e gli disse che era una bella giornata. «Chi è quell'uomo dalla faccia rossa che ha detto che è una bella giornata e ha salutato il nostro difensore?» sussurrò Mr. Pickwick. «L'avvocato Mr. Buzz Fuzz», rispose Perker. «È il nostro avversario, il primo patrono dell'accusa. Quel signore dietro di lui è Mr. Skimpin, il secondo.» Mr. Pickwick stava per chiedere con profondo disgusto per la gelida perfidia dell'uomo come l'avvocato Mr. Buzzfuzz, padrono di parte avversa, si permettesse di dire all'avvocato Mr. Snobbing, suo patrono, che era una bella giornata, quando fu interrotto da un alzarsi in piedi generale di tutti gli avvocati, mentre gli uscieri gridavano energicamente «Silenzio nell'aula!» Girando lo sguardo, vide che tutto ciò derivava dal fatto che stava entrando il giudice. Il giudice, Mr. Sterling, che faceva le veci del primo giudice della corte, attualmente indisposto, era un uomo incredibilmente basso e tanto grasso che sembrava tutto faccia e panciotto. Egli rotolò nell'aula sopra due gambette ben tornite e, dopo essersi inchinato gravemente agli avvocati che si inchinarono gravemente verso di lui, mise le sue gambette sotto la tavola e il suo piccolo tricorno sopra. E quando il giudice Mr. Sterling ebbe fatto questo, tutto ciò che di lui si vide ancora furono i due occhietti bizzarri, il suo faccione rosa e circa metà di una grossa parrucca, molto comica a guardarsi. Non appena il giudice ebbe preso il suo posto, l'usciere che stava dinanzi a lui gridò «Silenzio!» con voce di comando, e subito dopo un altro usciere nella tribuna gridò irosamente «Silenzio!» al che altri quattro o cinque uscieri urlarono «Silenzio!» con tono di sdegnato rimprovero. Thank you. Gli uscieri ordinarono ancora il silenzio e Mr. Skimpin procedette ad aprire il caso. E il caso dimostrò di avere un contenuto ben scarso quando fu aperto, poiché l'oratore tenne completamente per sé tutti i particolari che conosceva e sedette, dopo un lasso di 3 minuti, lasciando la giuria nello stesso preciso e avanzato stato di conoscenza nel quale era prima. L'avvocato Buzzfuzz sorse allora con tutta la maestà e la dignità che la grave natura dell'azione richiedeva, e dopo aver bisbigliato qualcosa a Dodson e conferito brevemente con Fogg, si tirò la toga sulle spalle, si aggiustò la parrucca e si rivolse alla giuria. L'avvocato Buzzfuzz incominciò col dire che mai, in tutto il corso della sua esperienza professionale, mai, da quel primo momento in cui aveva deciso di applicarsi allo studio e alla pratica della legge, si era avvicinata a una causa con sentimenti di così profonda emozione e con un senso così pesante della responsabilità che gravava su di lui. Una responsabilità, ci teneva a dirlo, che non avrebbe potuto sopportare se non fosse stato rincuorato e sostenuto dalla convinzione, tanto forte da sfiorare l'assoluta certezza, che la causa della verità e della giustizia, o in altri termini la causa della sua oltraggiata e oppressa cliente, dovesse ottenere il riconoscimento di quei 12 uomini magnanimi e intelligenti che egli vedeva nella tribuna davanti a sé. Gli avvocati incominciano sempre in questo modo perché così riconciliano i giurati con se stessi e li inducono a pensare di essere persone eccezionali. L'effetto fu visibile immediatamente. Parecchi giurati incominciarono a prendere gran quantità di appunti col massimo zelo. «La querelante, signori», continuò l'avvocato Buzzfuzz con voce dolce e malinconica, «la querelante è una vedova». «Sì, signori, una vedova. Il defunto Mr. Bardell, dopo aver goduto per molti anni la stima e la fiducia del suo sovrano in qualità di custode delle rendite della corona, trapassò quasi impercettibilmente da questo mondo per cercare altrove quel riposo e quella pace che un ufficio doganale non può dare». A questa patetica descrizione del decesso di Mr. Bardell, che era morto nella cantina di un'osteria per un colpo di bottiglia preso sulla testa, la voce dell'illustre avvocato tremò, mentre proseguiva con grande emozione. Qualche tempo prima della sua morte, egli aveva riprodotto la sua immagine in un bambinello. Con questo bambinello, unico pegno del defunto doganiere, la signora Bardell volse le spalle al mondo e cercò il ritiro e la tranquillità in Goswell Street. E qui attaccò alla finestra del salotto che dava sulla strada un cartellino con le seguenti parole: «Camere ammobiliate per signore solo chiedere dentro». L'avvocato Buzzfuzz si interruppe, mentre diversi signori della giuria prendevano nota del documento. «Vi rimase a lungo? No! Il serpente era in agguato, la miccia era accesa, la mina si stava scavando, il diabolico artificiere era all'opera. Non erano passati 3 giorni da quando il cartello si trovava alla finestra del salotto. 3 giorni, signori, quando un essere eretto su 2 gambe, che aveva tutti i connotati esteriori di un uomo e non di un mostro, bussò alla porta di casa della signora Bardell, chiese informazioni, fissò le camere e subito il giorno dopo ne prese possesso. Quest'uomo era Pickwick, il convenuto!» L'avvocato Buzzfuzz, che aveva parlato con tanta foga da riportarne il volto paonazzo, si fermò a prender fiato. Il silenzio svegliò il giudice Mr. Sterley, che immediatamente scrisse qualcosa con una penna senza inchiostro e prese un'aria insolitamente profonda per dare l'impressione alla giuria di aver pensato molto profondamente mentre aveva gli occhi chiusi. Thank you.